Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo. Buongiorno Laura. Passate bene le vacanze? Sì, buon anno, buon dobbiamo anno. Dirlo, buon anno assolutamente, anche se è già il 4. È quasi è già finito il 2020. Gennaio. Volevamo dire che basta, chiudiamo, salutiamo. Esatto. È andata, è finita, ce lo siamo perso. Ci siamo svegliati un giorno ed era già il 4 di gennaio. Esattamente, no, le ho passate molto bene e mi è mancato, si può fare, anche perché è stato l'unico weekend da quando abbiamo iniziato a settembre in cui non ci siamo visti. Quindi mi sei mancata moltissimo, volevo dirti questo. Ma grazie. In mezzo alle vacanze tra Natale e Capodanno, ma eccoci qua di nuovo per il nuovo anno. Per il nuovo anno, tra l'altro, iniziamo con largo anticipo perché sono appena le 8:30, quindi proprio abbiamo una puntatona piena di appuntamenti, ovviamente nuovi, come del resto è stata quella della settimana scorsa, anche se non eravamo in diretta, ma una puntata nella quale avremo tanto spazio per parlare anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il nostro numero verde, come sempre, oggi per il quiz. Certo, essendo sabato non è cambiato niente al momento per il nuovo anno, quindi c'è un quiz. Noi vi leggeremo una notizia e vi daremo tre possibili finali di questa notizia. Voi dovete indovinare qual è quello giusto. Se lo indovinate, vi portate a casa, penso che siano ancora i biglietti per ci la risulta. Mostra, esatto, Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. Ci risulta così, ma appunto non c'è solo la possibilità di intervenire per il quiz, ma anche per commentare eventualmente gli argomenti che toccheremo nel corso della puntata, in particolare magari anche uno, perché domani torna quella famosa giornata dei musei gratis. Sì signori, torna, e se non ricordo male a un certo punto sembrava che fosse saltata, ma proprio infatti va e viene, un po' intermittente. Esatto. Perché c'è il ministro a cui piace e il ministro a cui non piace. Esattamente, no? Quindi... era una vecchia insomma, siamo nel 2014, vecchia mi sembra un po' troppo, idea di Franceschini, allora ministro, di far sì che tutte le prime domeniche del mese fossero gratuiti, dico tutti o forse la maggior parte dei musei. E proprio riguardo a questo, giusto? Sì, proprio riguardo a questo vorremmo sentire anche il vostro parere, magari anche qualche consiglio di museo da visitare, no? Il 5 di gennaio i musei saranno aperti, a ingresso gratuito, i parchi archeologici, i musei d'Italia, c'è un po' di tutto. Io ad esempio ho visto il parco delle incisioni rupestri, quello di provincia di Sondrio, no? Grosio. Io non ci sono stata più dai tempi delle elementari, magari è la volta buona, certo, che ci possiamo anche ritornare con giusto, la famiglia, le bambine, tutti giusto, quanti. Giusto, mi sembra... qualche consiglio di visita da esatto, voi. Mi sembra un'ottima idea, soprattutto perché di musei in Italia c'è questa particolarità. L'Italia è ricchissima di musei, anche di musei molto piccoli, anche di musei poco conosciuti. Quindi ovviamente quando tutti i giornali parleranno di questa iniziativa e gli ingressi gratuiti sono anche per il Colosseo, sono per gli Uffizi, quindi van benissimo queste grandissime istituzioni, grandi musei, ma a noi ci interessano anche quelli piccoli, il museo che è di fianco a casa vostra, il museo dove avete la sensazione che ci vadano poche persone, non so, a me viene in mente il museo del Bottone, che è a Sant'Arcangelo di Romagna, che è un museo all'interno di una casa, era un collezionista, sì, credo, sì, insomma, sì, che lui personalmente, collezionista di Bottoni, sì, esatto, sì. E ce n'è tantissimi di musei e quindi vi chiediamo di raccontarci il museo più vicino a casa vostra o il museo che secondo voi va assolutamente visitato, qualunque sia, e possiamo dire non per forza che sia gratuito, no, perché può essere che alcuni di questi magari molto piccoli o magari in difficoltà. Quello che hai nominato tu, tra l'altro, è proprio un museo dove si fa un'offerta, quindi non è che domani sarà gratuito. Anzi, mi sembra un'ottima occasione anche per raddoppiare la propria offerta. Esattamente, quindi 824 0024 per il quiz, ma anche per suggerirci dove andare domani, quale museo visitare, 349 238 6666 per i vostri messaggi via SMS, via WhatsApp, via Telegram, come preferite, abbiamo tutto sott'occhio. Carlo, tu invece che cosa vuoi farci, su cosa vuoi farci riflettere questa settimana? Ma su una cosa, diciamo che è più o meno dall'inizio dell'anno che ripenso alle parole di Mattarella. È stato ascoltato a reti unificate da quasi 10 milioni di italiani, quindi è stato molto ascoltato. Però il fatto che mancassero poche ore ai botti, allo spumante, agli auguri, alle lenticchie, ai cotechini, rischia di farcelo dimenticare il discorso di Mattarella, digerire troppo presto, oppure commentare con dei rutti come un discorso superfluo. È stato, secondo me, un discorso bellissimo, importante. Più ci penso e più mi convinco che la buona notizia per tutti noi è che Sergio Mattarella sia il nostro Presidente della Repubblica. E mi è piaciuto quando, mostrando una foto del nostro paese dallo spazio, invita tutti a provare a guardare all'Italia da fuori, per ricordarsi quelle virtù che ogni straniero ci riconosce, che è una cosa che noi, anche qua si può fare, spesso facciamo, no? Di cercare di astrarsi, di non vederla dall'interno, ma di vedere da fuori com'è l'Italia nei confronti degli altri paesi. Ho trovato sconvolgente, e a maggior ragione oggi, che tutte le prime pagine parlano di una possibile guerra tra Iran, Stati Uniti, o addirittura c'è stato un hashtag che è stato molto famoso in questi giorni, che era terza guerra mondiale. Ecco, ho trovato sconvolgente quando, citando Parmitano, che osserva l'intero pianeta dallo spazio, dice: da quassù, da questa navicella, avverto quanto appaiono incomprensibili e dissennate inimicizie, contrapposizioni, violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto. E penso spesso a quando comprenderemo che stiamo tutti inevitabilmente dalla stessa parte e che ogni progetto che esclude è per forza di cose destinato a fallire. Ho adorato questa frase del Presidente: quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. Perché basta ripetersela in testa 3 volte al giorno per comprendere, nel senso di avere comprensione per qualsiasi emarginazione, discriminazione, minoranza. Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. È stato, secondo me, un discorso utile, pieno di ossigeno e con uno sguardo differente, un discorso che mostra una strada percorribile e invita tutti a farlo assieme. Ecco perché leggere un commento, diciamo, in risposta al Presidente che dice: magari le mie sono parole scomode perché a Capodanno bisogna fare discorsi più insapori, ecco, fa davvero molto ridere. No, signor Matteo Salvini, le sue non sono affatto parole scomode, ma proprio per niente. Sono, come al solito, le parole più comode del mondo, quelle che sceglie sempre. Sono un ammorbante urlare al disastro nella speranza che sia almeno la paura ad assegnarle un potere. Invece, quello che ha fatto il nostro Presidente, cioè cercare di risollevare un'indole mostrando la speranza e richiamando all'unità, ecco, questo oggi è scomodo, questo è ciò che oggi ci serve. Sai che nel riascoltarti raccontare il discorso di Mattarella mi hai fatto venire in mente che pochi giorni fa, grazie a una segnalazione di una collega del Sole 24 Ore, Antonella Scott, io mi sono, diciamo, ho cercato di seguire, per quello che riuscivo con i sottotitoli, il discorso che ha fatto il presidente ucraino, l'attore comico. Certo, no? Che sarà stato sicuramente più divertente, perché di Mattarella si può dire tutto, ma insomma, non sì, che certo, sia divertente. Non è un intrattenitore di folle. Zelensky è stato sicuramente più bravo da un punto di vista attoriale, ma del resto, certo, è anche mestiere, no? È suo. Bravissimo. Ma Ore Palco si chiamano. Ecco. E poi c'è stato un bel montaggio, perché è stato proprio costruito un video, lo si può trovare tranquillamente su internet se qualcuno ha voglia di vederlo. Purtroppo non l'ho trovato in italiano, perché avrei voluto seguirlo meglio, no? Certo. Perché ho faticato con i sottotitoli che erano in altre lingue. Però è stato un bellissimo discorso, e anche lui ha fatto molto riferimento alla necessità di fratellanza tra gli ucraini, no? Chi siamo noi? E poi fa tutto un elenco: siamo donne, uomini, medici, soldati, e via via al suo volto si sovrappongono i volti di altre persone. Quindi ah, lui, certo, parla e no, un po' tipo morphing. Bravo, esattamente, una cosa di questo genere. E quindi è proprio un bel discorso, e anche lui ha fatto tutto questo lavoro, diciamo, per ricordare agli ucraini che loro devono costruire l'Ucraina adesso insieme, no? Che devono riconoscersi gli uni gli altri, accettarsi e insieme costruire questa patria. Quindi anche quello è un discorso che vale la pena di andare a cercare, magari si riesce, o magari trovarne qualche traccia anche semplicemente di scritto. Certo, certo. Volevo aggiungere solo una cosa sempre sul discorso, perché in realtà c'è stato un momento durante il discorso di Mattarella in cui volevo chiamarti, perché lui dice una cosa molto precisa. Adesso ovviamente chiedo scusa se sono stato un po' lungo su Mattarella, che il discorso è veramente durato 16 minuti, è molto denso. Però tra le varie cose che lui dice c'è un passaggio in cui dice ci sono un sacco di italiani che si danno da fare e sono in silenzio, e poi un certo punto in cui dice anche voi dei media dovete occuparvi di narrare, di raccontare l'Italia. Ecco, credo che stesse parlando un po' anche a noi, che ci occupiamo esattamente di questo, di un sacco di persone italiane che in silenzio, senza far rumore, senza far proclami, si occupano di cose serie e si danno moltissimo da fare per gli altri. Ecco, noi quelli andiamo a scovare. Quindi mi sono sentito un attimo che ho detto: guarda, secondo me sta parlando con noi, Laura. Esatto. Allora devi chiamare il presidente e dire: ma noi ce ne occupiamo, però. Ma io ho il tuo di numero e non ho quello di Mattarella, ovviamente. Mandiamogli un whatsappino, ci sarà un whatsappino del Cremlino? No, stavo dicendo del criminale. Scusami. Va bene, cioè va male, perché se si inceppa la lingua così fino dalle 8:40, chissà come arriviamo alle 10. Carlo, sono arrivate tantissime segnalazioni di musei, hai visto? Guarda, sì, che quanti ho visto, sì, stanno che ho già visto. Scrivendoci, forse ne leggiamo qualcuno, dai, ne leggiamo qualcuno a partire. Il primo è stato, dunque, no, questo si riferisce alla trasmissione precedente. Io vedo il museo Gianni Rodari di Omegna, in occasione del suo centenario della morte, lo scrittore di Noi tutti piccoli alunni italiani da generazioni, questo ci segnala Stefano De Masi. Esatto, e poi dopo, dunque, c'è Vigevano che si segnala. Vigevano, oltre alle belle cose sforzesche leonardiane, il museo della calzatura, dalla babbuccia di Beatrice d'Este alle calzature dal mondo e nella storia, quindi Marilyn Monroe, la Boutin, interessantissimo soprattutto per le donne, dice, ma effettivamente può essere curioso un po' per tutti. Poi, Gragnano Trebbiensi, provincia di Piacenza, beh, c'è il museo della M, questo è un classico. Poi il museo Gianni Rodari, l'hai già detto. Beh, sono originario della Sardegna e consiglio vivamente di visitare il piccolo, ma veramente ben curato, il museo archeologico. Hai visto? Quindi ce ne sono tanti, continuate pure a segnalarceli al 349-238-6666 e vi ricordo anche che c'è la possibilità di prenotarsi per partecipare al nostro quiz. All'824-0024 ci sono domande, tre risposte a scelta e poi dopo si vincono i biglietti, sta a voi, poi magari ci venite anche a trovare nel caso veniste un fine settimana a vedere la mostra Impressioni d'Oriente. C'è anche chi vuole commentare la questione Mattarella, ma io direi che insomma forse la teniamo chiusa così, perché secondo me il Presidente della Repubblica è stato abbondantemente commentato poi, no, nei giorni scorsi. Esatto. E noi volevamo mettere l'accento su quel passaggio, appunto, del pensare bene, pensare insieme, pensare a noi anche visti dall'esterno e non solo guardando le piccolezze di ogni giorno. E ritrovare anche un po' la bellezza e la forza di essere italiani, nel senso che giustamente Mattarella ricorda anche molto precisamente il fatto, i motivi per cui noi siamo conosciuti nel mondo. Ecco, se ci ricordassimo più quelli piuttosto che i motivi nostri casalinghi per cui ci odiamo uno con l'altro, credo che sarebbe meglio. Precisamente. Tra l'altro ci scrive un'ascoltatrice che è stata al MUD e che grazie ai nostri biglietti, visto? È tutto questo, vero, eh? Questo un ascoltatore, interessante. Luciano, ci fa piacere che lei sia stato a vedere la mostra, non è riuscita a passare dalla Sede del Sole, vabbè, la prossima volta ritornate e venite anche a vedere la Sede del Sole 24 ore e ovviamente contemporaneamente di Radio 24. Tra l'altro, tra i tanti temi che ci piace discutere con voi, c'è anche quello che affronteremo subito dopo la viabilità, che è il tema della ricerca sugli animali. Certo. La ricerca medica fatta sugli animali, c'è una notizia positiva che è arrivata dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha deciso di rinunciare a questo tipo di ricerca e ha liberato 9 macachi dopo 11 anni di esperimenti. Ne parleremo con la LAV, quindi la Lega Antivivisezione, e anche voi, se volete dirci la vostra, attraverso il numero verde o attraverso i messaggi, ovviamente sarete i benvenuti. Io direi, Carlo, che siamo quasi al momento di dare la linea alla viabilità. Che certo dici? Che sì. Benissimo, viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco, arrivano altre segnalazioni di musei. Il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso a Torino, eccone qua uno. E a Tenno, in Trentino, il Museo Don Camillo e Peppone. Bello. Che non pensavo che fosse lì, perché Don Camillo e Peppone sono, infatti, evidentemente... non lo so perché non hanno il museo laddove no? Insomma, esatto. Esercitano, diciamo così. O dove c'era Guareschi, insomma. E si vede che a Tenno si sono organizzati per un museo che riscuote molto successo. Museo megalitico di Aosta, un sito eccezionale in stato di eccezionale conservazione, con reperti del 4500 a.C., ci scrive un altro ascoltatore. Però adesso arriviamo alla questione di cui abbiamo detto poco prima di lasciare lo spazio alla viabilità, ovvero a questa buona notizia che è arrivata, la scelta storica dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha liberato 9 macachi dopo 11 anni di esperimenti. Ne vogliamo parlare con Michela Kwan. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Biologa, responsabile della LAV, ricerca senza animali. Allora, la prima così curiosità che ci viene, al di là del fatto che sia una buona notizia quella che appunto abbiamo appena dato, di questa scelta dell'Istituto Superiore di Sanità, i macachi intanto sono stati liberati, dove sono? Cosa succederà di loro, ecco, dopo questi 11 anni di esperimenti? Quindi metà della loro vita, per quanto c'è stato, no? Abbiamo un po' visto che l'età media è più o meno così. Sì, in cattività un macaco può vivere anche fino a 25 anni. Questi sono animali che purtroppo per 11 anni sono stati in spazi veramente molto piccoli. Se basti pensare che le gabbie normalmente previste per legge sono, diciamo, grandi la metà di un tavolo, un tavolino piccolino, e loro fanno tutta la loro vita dentro, all'interno di queste strutture, lontano dalla luce del sole, dalla possibilità di movimento, di socializzazione. Quindi ci sono delle deprivazioni molto gravi, sia fisiche che psicologiche, per cui gli animali, quando vengono dai laboratori, hanno bisogno di un percorso di recupero abbastanza complesso, che viene seguito normalmente da un veterinario affiancato da un primatologo. Questi macachi sono una speranza ovviamente per tutti gli altri animali che sono ancora rinchiusi nei laboratori, e sono stati portati nel centro di Semprognano, che è un CRASE, quindi un centro di recupero di fauna esotica e selvatica in Toscana, molto bello e molto grande, nel quale l'AV ospita già due colonie sempre di macachi. Ma come stanno adesso questi 9 macachi? Stanno, io vengo da Semprognano, ero proprio lì a passare il Capodanno per lavorare con loro, e anche se chiaramente c'è il veterinario, io sono un biologo, quindi non ho le competenze per fare questo mestiere, però li ho visti, sono molto pallidi. Questo è la cosa che a me fa un po' impressione, nel senso che i macachi che abbiamo recuperato noi hanno delle strutture aperte enormi, veramente molto grandi, per cui imparano lentamente ad andare all'aperto, a giocare, a correre, a salire sugli alberi, che sarebbe la cosa che loro naturalmente farebbero, mentre gli animali in cattività, essendo proprio allontanati dall'esposizione alla luce solare, perché vengono alimentati con luce artificiale 12-12, quindi dei cicli di 24 ore, sono veramente molto pallidi, e si vede chiaramente il tatuaggio che hanno sul petto, quindi a me fanno molta impressione, molta tristezza per questa cosa. E gli aspetterà sicuramente un termine di una vita con delle aspettative più belle e felici, quindi adesso lentamente... Sempre all'interno di questo centro, immagino. Assolutamente. Cioè non sono liberi in realtà, perché per essere liberi immagino che dovrebbero andare in un altro paese, perché in Italia... No, non si possono liberare come adesso la LAV 3 e 4 anni fa ha recuperato con degli accordi di università importanti, cioè Modena e Padova, con l'Istituto Profilattico delle Venezie, quindi ci sono degli enti importanti che hanno fatto delle scelte morali che sono segnale di un cambiamento all'interno del mondo scientifico, di cui noi ci auguriamo sia solo l'inizio, e hanno queste strutture molto grandi e quindi possono correre, però chiaramente non possono essere messi in libertà, perché sono animali che sono o nati in cattività o provengono da catture dei paesi lontanissimi, ad esempio la Cina, le Filippine, le Mauritius, vengono trasportati per ore e ore, più di 72 ore in voli transoceanici in stive, subiscono una quarantena e poi finiscono nei laboratori, e quindi questi sono animali che sono stati talmente soggetti a situazioni artificiali che in natura morirebbero, non avrebbero possibilità di sopravvivere, quindi la cosa migliore che possiamo fare per loro è costruire queste gabbie, ma dico, sono praticamente dei parchi in cui loro possono finalmente comunque correre, soprattutto stanno insieme, perché nei primati, che sono animali molto particolari, che anche per legge in teoria godono di diritti speciali, la socializzazione è molto importante, sono molto simili all'uomo, quindi questo isolamento li porta spesso alla depressione, a farsi delle mutilazioni personali, quindi insomma ci sono dei gravi comportamenti psicotici, ad esempio anche delle stereotipie comportamentali. Quando arrivano da noi i macachi, ma anche altri animali, ad esempio i felini dalle zoo e dagli animali dai circhi, tendono, anche se hanno delle strutture molto grandi, a muoversi sempre nella stessa area, perché sono talmente tanti gli anni che hanno passato chiusi dentro delle gabbie minuscole che non si muovono da quel perimetro lì. Certo, ma senta, le volevo chiedere una cosa, nel senso, a che punto siamo? Personalmente sono contrario al maltrattamento di qualunque animale, però so anche bene che ci sono casi in cui, per testare medicine, insomma, facciamo il solito esempio, nel momento in cui si trova il vaccino per l'AIDS, uno dice testiamolo su un animale prima di testarlo sul proprio figlio. E a che punto siamo da questo punto di vista? Nel senso che sappiamo che nel 2014 c'è una legge che prevede che l'Italia si impegna a evitare la sperimentazione animale se non strettamente necessaria e in assenza di metodi alternativi. Sì, questa è la teoria che però raramente viene applicata. Il fatto di paragonare la vita animale a quella umana è un modo comune di approcciare il problema, che è assolutamente sbagliato. Non è un male necessario che automaticamente le persone devono accettare, è diverso. L'esperimentazione animale fallisce in oltre il 95% dei casi, è un modello che scientificamente non è mai stato validato ed è chiaramente il riflesso di una prassi della fine dell'Ottocento. Noi nel 2020 non possiamo accettare questo proprio metodo scientifico, perché di fatto di scientifico non è, è semplicemente qualcosa che è nato più di un secolo fa e che, come tutto evolve, la tecnologia, la situazione igienico-sanitaria nei paesi, il nostro comportamento eccetera, deve evolvere anche questo. Ma noi scusi, ma quelli che fanno quindi questo tipo di sperimentazione, se secondo lei è assolutamente inutile, perché lo fanno? Perché sono dei cattivissimi che vogliono far male a delle scimmiette, non credo. Assolutamente, a parte che il problema degli animali è molto più ampio, perché abbiamo oltre 600.000 animali in Italia ogni anno che vengono uccisi per scopi sperimentali, quindi non parliamo solo di scimmie, ma sono molti molti di più, e la legge non pone limiti a quello che noi possiamo fare, sia in ordine di specie sia a livello di dolore che si può inferire. Il problema è che c'è una parte della ricerca che prevede degli obblighi legislativi, come quello farmaceutico che lei ha appena citato, e che chiaramente vanno cambiati, vanno aggiornati. Le leggi sono di più di 50 anni fa, i metodi alternativi invece man mano vengono sviluppati e sono l'innovazione e il futuro della tecnologia, e quindi le leggi vanno aggiornate, ma voi sapete quanto tempo ci vuole per cambiare le leggi. E poi esiste tutta una parte della ricerca che invece non prevede l'obbligo del passaggio sull'animale per legge, come la ricerca di base, quindi quella investigativa, e invece lì dove noi ci aspetteremmo una percentuale rasente allo zero degli animali, perché chiaramente appunto, come appena non citato, è richiesta la legge, ecco, di fatto invece non è assolutamente così, e questo dovrebbe essere un impegno immediato, ed è una cosa che non dice la LAV o gli animalisti, ma appunto dice la norma. Quindi è importante far capire anche alle persone che chiaramente non sono così vicino a un argomento così complesso come la sperimentazione animale, quanto i metodi alternativi siano invece scientificamente predittivi, utili, economici e rapidi, e devono essere non solo il futuro ma anche già il presente. Alcuni centri in Italia già li fanno, quindi c'è comunque questa voce nel nostro paese, ma deve diventare una voce molto più forte anche per diventare competitive a livello internazionale e poter dare un reale speranza ai malati, perché il metodo alternativo è un metodo che viene appunto a uno screening molto complesso, anche lungo 10 anni, che deve essere predittivo e applicabile in tutto il mondo, in tutti i laboratori, e questo ha permesso, per farvi solo un esempio, di mutare completamente il mondo della cosmesi, perché noi avevamo una volta il coniglio che gli si metteva, adesso qualcuno di voi forse si ricorda, certo, quelle immagini, certo, terribili. Esatto. Ma su quello secondo me non c'è nemmeno tanto da discutere, nel senso che nessuno vuole, per la cosmesi ci mancherebbe, ma quello, assolutamente, quello che ma le sto chiedendo, è una questione di predittività, non è sì, una questione di etica, è una questione del fatto che quel modello sbagliava in oltre il 50% dei casi. Adesso però siccome viene usato da un certo punto di vista, non è che le aziende vogliono che non funzioni questo. Cioè io quello che le volevo, volevo capire è, bisogna liberare anche i topolini, le cavie, perché mi immagino, mi immagino che per esempio le piastrine anti-zanzare vengano testate su delle zanzare, giusto? Che soffrono così terribilmente e muoiono. No, allora, nel caso degli insetti, questi essendo invertebrati non vengono considerati animali dal punto di vista della legge, quindi non soltanto i vertebrati, l'unico invertebrato che viene considerato tale allo scopo sperimentale è il polpo. Quindi quando parliamo di numeri e di statistiche sono sempre vertebrati e soprattutto sono vivi. Le carcasse, le parti, certo, degli animali, i tessuti non vengono considerati animali, quindi quei 600.000 animali sono animali coscienti e vivi e spesso anche utilizzati senza anestesia, quindi chiaramente ci sono dei limiti etici che bisogna porsi, ma il discorso, cioè, è proprio sulla predittività. No, è chiaro, il discorso, lei dice, il discorso è che non funziona questo metodo, quindi esatto, smettiamo di usarlo. Io su questo non ho... un impegno comune, appunto, e siamo molto contenti che l'Istituto Superiore di Sanità, che chiaramente è una voce importante, importantissima nel nostro paese, abbia fatto delle dichiarazioni, non solo abbia liberato e dismesso questo gruppo di macachi, ma il direttore e altri, diciamo, responsabili hanno dichiarato l'impegno verso i metodi alternativi e l'importanza, certo, dell'innovazione, del cambiamento, perché tutto deve cambiare. Nel momento in cui si capisce che il metodo alternativo è maggiormente predittivo, è più utile per l'uomo, allora la scienza deve avanzare, evolversi, in quella direzione, certo, come tutto quanto, cioè nel momento in cui c'è un'evidenza, e di evidenze ne abbiamo avute tante, chiaramente. Certo, allora io vorrei, siccome ovviamente tanti si lamentano, lei non li vede, ma noi vediamo i nostri ascoltatori, messaggini di quelli che dicono però intanto va salvato la salute qua e là. Allora, lei ricordava giustamente che non solo la LAV ha una posizione, ma anche una collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, e che l'Istituto Superiore di Sanità ha ribadito il suo impegno per la messa a punto di modelli innovativi, quelli di cui lei ci stava parlando. Quindi esatto, non è che stiamo dando voce solo a una parte, in realtà stiamo dando voce a una parte che con l'altra collabora per cambiare un po' la situazione e i modelli di riferimento attuali. Sì, ecco, le sue superiori sanità ha fatto questa scelta in maniera assolutamente indipendente. La LAV diciamo, lavora nel centro di recupero e quindi questi animali sono affiancati a degli altri animali che abbiamo noi. Però la scelta dell'istituto non c'entra niente con la LAV, loro hanno preso una posizione da per sé e quindi hanno dato un segnale politico e scientifico molto chiaro, che è lontano dal mondo animalista, ma è nato dalla necessità di vedere un'applicazione di una ricerca completamente diversa. E non è l'unica voce, perché anche altri centri grossi universitari di ricerca pubblica, che ricordo danno posti di lavoro, che questo è un altro punto molto importante, perché chiaramente deve esserci anche la tutela del lavoratore, della possibilità di dare ai nuovi ricercatori dei posti di lavoro, mm-hmm, e di non dover andare all'estero per imparare delle tecniche che in Italia non vengono insegnate. Ad esempio ci sono gravi gap culturali. Adesso non allarghi troppo, perché altrimenti poi finiamo dentro al giornale radio. No, comunque il discorso a noi sembra una buona notizia, perché giustamente i macachi liberi ne siamo felicissimi, e dall'altro e anche l'idea di cambiare testa, no? E di cambiare tecnica, e che non si avvisiamo tutti che non si sta bloccando la sperimentazione scientifica, anzi per niente, si sta continuando ma con altri metodi, e quindi avremo sia i vaccini, sia le medicine, sia i macachi liberi. Esatto, perfettamente ha riassunto il concetto. grazie Michela Kwan, biologa responsabile LAV, ricerca senza animali. Buona giornata, buon proseguimento. Noi adesso diamo la linea a GR24. No, ce la facciamo, abbiamo un ascoltatore per il quiz. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Credevo non avessimo il tempo di collegarci con lei, invece c'è. La domanda gliela facciamo subito. Allora, Gran Bretagna, per una volta non parliamo di Brexit. Il 2019 infatti è stato l'anno di una importante prima volta per il Regno Unito. Quale? Risposta numero 1: per la prima volta vento, acqua e sole hanno prodotto più energia dei combustibili fossili. Risposta numero 2. Per la prima volta le donne hanno occupato il 50% delle posizioni dirigenziali della City di Londra. Risposta numero 3. Per la prima volta i pub inglesi hanno servito più acqua minerale che birra nel corso dell'anno. Numero 2. Secondo me. Le donne che occupano il 50% delle posizioni dirigenziali della City sarebbe una notizia straordinaria, ma non è quella giusta, infatti, purtroppo. È quella del vento, acqua e sole che hanno prodotto più energia dei combustibili fossili. A tra poco, GR24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivano tantissime segnalazioni di ascoltatori su musei i più vari nel nostro paese. Intanto buongiorno a tutti, Allora, buongiorno di nuovo a tutti e anche a coloro che si sono appena collegati con Si può fare. Buongiorno da Laura Bettini. E buongiorno e buon anno da Carlo Gabardini. Dicevo, ci sono tantissime segnalazioni di musei. C'è anche Donatella che ci fa notare che i musei gratuiti, ci ricorda che i musei gratuiti sono quelli statali. Ha ragione, è vero. Però dai, noi stiamo facendo un po' un'indagine. Vero. Sui musei del cuore di ciascuno di noi, no? Quindi arrivano il Museo Navale di La Spezia, per esempio. Ma poi il senso è esattamente questo: nonostante siano gratuiti domani, esistono un sacco di piccolissimi musei dove magari l'ingresso costa anche poco, dove, come ricordavi prima tu, Laura, basta mettere un'offerta, e ci sembra un buon momento per ricordare tutti questi musei. Esattamente. Quindi ho detto il Museo Navale di La Spezia, Modena, Silvia ci consiglia la mostra Piccoli Tesori di latta. Beh, vedi, che è una mostra di giocattoli antichi. Poi Daniela da Prato dice il Museo del Tessuto, dove adesso c'è anche una mostra temporanea degli abiti del film di Pinocchio di Garrone. E poi c'è il Museo della Archeologia Informatica a Cosenza, dagli anni 60 in poi tutti i calcolatori. Ma che belli anche questi. E poi dai WhatsApp invece vedo il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, il Museo della Poesia a Piacenza, il Museo dell'Arcivescovado a Vigevano. Guarda quanti consigli di visita. E ce n'è un altro che non so se non lo ritrovo più. Uno che dice c'è il Museo della Lettera d'Amore. Esattamente. Che lo trovo straordinario. Torre Vecchia Teatina. Brava. Ci sono anche le lettere scritte a Giovanni Paolo II. E lì non ho capito, però io su quella cosa lì mi sono forse celeste. Prima, forse amore celeste, o forse giustamente uno può essere comunque innamorato, sono è amore non corrisposto, per esempio. Beh, no, ma è perché tu stai pensando un amore passionale, così, però invece tu al Papa cosa puoi scrivere? Beh, ma la lettera, però il Museo della Lettera d'Amore parla di quello, non penso che la lettera, se no non è lettera d'amore. Chi l'ha visto, magari ci può anche scrivere come sono queste lettere che erano state scritte al Papa. Che lì sono esposte. Poi c'è il Museo della Seta Como, ovviamente. Certo. C'è un po' il Museo Antropocene. Vengono così veloci che non faccio in tempo neanche a leggere, mi scattano via. Mostra di Modigliani a Livorno. Beh, a Livorno, se non c'è Modigliani, ragazzi, dove può essere? Nei fossi a Livorno, ovviamente, e anche fuori dai fossi. Dunque, adesso noi vorremmo parlare di tutt'altro argomento, però continuate a scrivere musei, perché l'angolo dei musei lo teniamo per tutta la puntata, perché veramente ci sono tantissimi suggerimenti di tutti i tipi e molto interessanti, e vorremmo tornare a parlare di una questione che è sicuramente una di quelle calde, diciamo così. Calde mi sembra la parola perfetta. Infatti, perché la Terra ha la febbre. Così forse pare. C'è il punto interrogativo. Cioè, ci chiediamo. Cos'è? Ci chiediamo e chiediamo a nostra volta a Elisa Palazzi. Buongiorno Elisa. Buongiorno, buon anno. Allora, Elisa Palazzi è coautrice insieme a Federico Taddia di questo volume che si chiama Perché la Terra ha la febbre e tante altre domande sul clima, così stringiamo, no, sulla questione precisamente. E questo volume risponde alle domande dei bambini, ma può essere utilizzato un po' per tutti, perché io l'ho letto, in fondo, se abbiamo anche qua... Come sempre, i libri per bambini sono in realtà molto anche per i genitori, perché giustamente un sacco di genitori si ritrovano davanti a queste domande fatte dai figli e hanno bisogno di trovare un modo per dare delle risposte che siano sensate e giuste. Esatto, e Elisa Palazzi, che è ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, ha appunto sistematizzato con Federico Taddia delle risposte precise e coerenti sull'effetto serra e su questo surriscaldamento del nostro pianeta, no? Esatto. Sì, abbiamo seguito un po' la struttura di questa collana, Teste Toste, che contiene già altri volumi, sempre con Federico come coautore, e che intervista altri scienziati, e sono 29 domande su questi temi, che spaziano tra quello che si è osservato, le cause dei cambiamenti di adesso confrontati con quelli del passato, la possibilità di fare proiezioni future, ma anche domande più, chiamiamole, di base, quindi per far capire, per dare proprio i mattoncini in qualche modo, affinché un ragazzino anche piccolo possa cominciare a costruirsi la sua conoscenza, quindi per esempio se l'effetto serra è buono o no. Ma adesso noi gliele faremo alcune di queste domande, ma prima di farle alcune di queste domande, alle quali lei ha già risposto per iscritto, ma vogliamo provarla anche dal punto di vista orale, ma in realtà quello che le volevo chiedere era: com'è scrivere, dare risposta a questo tipo di domande a dei bambini, diciamo dai 9 anni in su, nel senso che c'è un rischio di allarmarli troppo, oppure addirittura c'è invece il rischio che per non allarmarli uno deve dire delle mezze verità? Come funziona? No, rischio di allarmarli troppo no, perché comunque diciamo noi ci siamo basati ovviamente sulle evidenze scientifiche spiegate ai ragazzi con un linguaggio appropriato, quindi questo è quello che... Però le evidenze sono allarmanti, giusto? Preoccuparsi è giusto, capire che si possono fare delle cose è altrettanto giusto, anzi anche di più. Insomma, questo libro deve essere una spinta al si può fare, per l'appunto. Giusto. Per me non è stato molto facile, perché l'esercizio di filtrare la complessità, che comunque va fatto chiaramente, perché bisogna usare il linguaggio gentile, appropriato ai ragazzi, non è stato facile. Lì chiaramente Federico invece il suo compito principale è stato quello davvero di semplificare i concetti, pur lasciando chiaramente la profondità della scienza. Certo. Io ho capito che bisogna imparare a togliere qualche cosa per far arrivare il messaggio, e non si può chiaramente dire tutto. La mia prima versione delle risposte era estremamente dettagliata, con informazioni in più, e questo chiaramente, quindi per me purtroppo anche per gli adulti è così, temo, purtroppo sì. Anche per gli adulti a togliere un po' di particolari conviene, perché sennò ci si perde. Certo, semplificare è difficile, lo diceva qualcuno, esatto. Mi sembra un anno. Quindi insomma è stato veramente, veramente un ottimo esercizio di divulgazione per me, che ne faccio già, ma forse sulla carta, sullo scritto per i ragazzi non mi ero mai cimentata. Certo, ecco. Perché ogni anno è l'anno più caldo della storia? Ecco, questa domanda è posta così, non è però correttissimo, nel senso che noi stiamo assistendo a un riscaldamento globale. Quindi significa che gli ultimi decenni sono sicuramente più caldi di quelli che li hanno preceduti, ma questo non significa che appunto ogni anno è più caldo di quello che lo ha preceduto. Ad esempio, nel record degli ultimi 150 anni l'anno più caldo è stato il 2016 a livello globale, e non è stato il 2018 seguito dal 2017, perché il clima ha una sua variabilità interna, delle oscillazioni da un anno all'altro, che però non sono assolutamente in contrasto col fatto che la tendenza globale, che si valuta su tanti anni, sul lungo termine, indica un surriscaldamento del pianeta. Quindi quella domanda è fatta così proprio perché un ragazzino potrebbe porla in quel modo. La risposta spiega che siamo in un regime di riscaldamento, ma ci sono delle oscillazioni per cui possiamo avere un anno più caldo seguito da un anno un po' più freddo, e così via. Certo. Un'altra domanda che le poniamo: l'effetto serra è buono o cattivo? Anche questa è fondamentale. L'effetto serra naturale è buono, è ciò che da 3 miliardi di anni regola il termostato del nostro pianeta, garantendo delle temperature miti. Se non ci fosse stato, la superficie del pianeta avrebbe avuto una temperatura di quasi meno 20 gradi sotto zero, quindi un pianeta probabilmente invivibile o con forme di vita estremamente diverse da quelle che conosciamo. è la sua amplificazione recente causata dal fatto che noi abbiamo con le nostre attività aumentato in maniera estremamente rapida le concentrazioni dei gas serra naturali in atmosfera, soprattutto l'anidride carbonica, ma non solo, anche il metano, l'ossido nitroso e tutta una serie di altri. Quindi è l'amplificazione antropica dell'effetto serra naturale che preoccupa e che ha surriscaldato il pianeta, rompendo un po' quel termostato naturale che regolava prima perfettamente la temperatura del nostro pianeta. Dunque, noi dobbiamo salutarla, però vorremmo ricordare agli ascoltatori e anche a tutti coloro che appunto compreranno questo volume, che ricordo si intitola Perché la Terra ha la febbre, collana Teste Toste, che si può anche scrivere sia a lei che a Federico facendo delle domande, no? Quindi non è chiuso questo libro, no. C'è un post. Vuole essere un dialogo che va oltre l'atto della lettura, per cui la 30ª domanda, per questo ne abbiamo fatte 29, ma chiaramente anche di più, possono essere spedite a testetoste@editorialescienza.it e poi là me le manderanno e io sarò ben lieta di rispondere. E questo è stupendo, perché sarà Elisa Palazzi in persona a rispondere alle vostre domande. Allora, quindi è tutto vero, ce l'ha esatto, detto. Esatto. Grazie Elisa Grazie Palazzi, mille. Buona giornata, buon proseguimento, viabilità. Si può fare. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. Tra i tanti musei arriva anche la segnalazione del Museo del Vento a Trieste. Mi piacerebbe sapere com'è un museo del vento. È proprio come magari, no, la difficoltà di immaginare il Museo della Lingua Italiana. Ecco, qui ho la difficoltà di immaginare vero. Questo museo. Però, insomma, bella, bel suggerimento. Ne arrivano ovviamente. Museo del Confetto ad Andria. Esatto, Shakespeare Interactive Museum a Verona, nonostante il nome. Museo del Damasco a Lorsica Liguria, un'eccellenza italiana, interessante anche questo. E cos'è il Museo delle Anime del Purgatorio a Roma? Non lo so. Ma proprio nemmeno io. Adesso cerchiamo. Bisogna assolutamente trovare qualche informazione sul Museo delle Anime del Purgatorio. Del Purgatorio, non tutte, solo quelle specifico. In attesa. Molto bene, 824 0024 per magari ulteriori segnalazioni, se riusciamo a prendere, sicuramente per partecipare al nostro quiz. Siamo stati noi invece a chiamare la professoressa Marta Ugolini. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Docente di economia e gestione delle imprese della Università di Verona, a proposito del Museo di Shakespeare, responsabile scientifica del progetto Impresa 4.0. Perché l'abbiamo chiamata? Beh, il 2020 per noi è sempre stato un po' l'anno, no? Il futuro. È vero, è proprio un anno che c'era anche il progetto il europeo, no? Horizon 2020. Certo. L'orizzonte lontano, no? Il futuro. L'orizzonte lontano però si deve tradurre poi in qualcosa di pratico e voi avete proprio cercato la messa a terra, no? Di questo futuro nelle imprese dell'area veronese, forse anche un po' più in là, mi pare di capire, perché comunque... Abbiamo parlato nel veronese, no, è un progetto... Veronese, ok. Della Camera di Commercio di Verona, quindi ha un bacino territoriale certo, ben preciso. Allora, voi cosa avete fatto con i vostri studenti? Beh, intanto siamo partiti dalla constatazione che parlavamo di futuro, ma c'è un ritardo nel livello di digitalizzazione e di diffusione delle nuove tecnologie nelle imprese, soprattutto in quelle di piccole dimensioni. Union Camere ha verificato, ha fatto un'indagine lo scorso anno, che 3 imprese su 5 sono proprio ancora negli stadi iniziali, vuol dire che o non hanno digitale oppure usano degli strumenti molto, molto di base. Il fax. Sono ancora al fax. Alcune ancora al fax. Si immagini che ne abbiamo trovate una che aveva la contabilità dei costi ancora in lire, per dire la realtà com'è, come la riega. Cioè, continuavano a fare 1936,27 ogni volta. I conti dei costi interi li faceva, per dire, adesso questo è un estremo. Io li capisco benissimo perché parlo ancora in lire quando devo rendermi conto che una cosa costa troppo. Ecco, poi invece ci sono delle realtà che sono assolutamente avanzate, che usano business intelligence e strumenti industria 4.0 molto avanzati. Ma senta, quindi, ma come funziona? Se abbiamo capito, voi avete una straordinaria squadra di 33 giovani digital ambassador che vanno in queste aziende, e come giustamente ricordava lei, anche quelle micro o molto piccole, e illustrano, trovano delle soluzioni. Come funziona? Abbiamo messo in piedi, e questo insomma si riesce con l'università, che riesce a mettere in piedi anche in poco tempo, a muovere competenze così a livello di docenti, e poi a preparare, ad addestrare e a seguire dietro gli ragazzi, gli studenti che sono stati mandati nelle aziende, ma certamente non mandati così allo sbaraglio. Certo. E il progetto è consistito proprio in 100 piccole e medie imprese della provincia di Verona che avevano un'esigenza legata a sviluppo digitale di vario genere, in cui siamo entrati. Prima è stato fatto un lavoro di analisi, di diagnosi, per capire quale fosse in realtà il problema. A volte ci siamo resi conto che gli imprenditori un po' sognano, oppure vengono portati a immaginare un loro futuro che è molto avanti, quindi bisogna fargli fare anche qualche passo di realtà indietro. E quindi poi sono stati fatti dei progetti di miglioramento specifici su ciascuna impresa, il tutto nel giro di poco più di un anno, che non è poco, cioè non, no, è, che è poco. Un tempo, è poco, esatto. È poco, non è poco il lavoro che c'è da fare per farlo. Nei settori più disparati, perché lì si va dalle vigne, ho visto, settore bakery, quindi panetteria, dolciario, che ce n'è tanto. È molto importante, esatto. Certo, poi c'è il mobile, poi c'è... Poi ci sono settori di servizi alle imprese di genere più vario, la logistica anche è abbastanza è forte a Verona ed era rappresentata nel nostro campione. Poi abbiamo avuto anche alcune diverse insomma imprese piccoline delle installazioni, quindi l'idraulico, l'impiantista, l'azienda. Ecco, ma entriamo nello specifico, cioè che cosa si sono inventati i ragazzi? Ci fa qualche esempio che possiamo capire anche io? Allora, intanto imprese che non avevano digitalizzazione, si è incominciato a lavorare su dei progetti di marketing digitale, perché sì, oggi i social, gli strumenti consentono in modo anche molto più semplice di quanto non fosse in passato di accedere a un pubblico, di arrivare a qualcuno, davvero quello interessato alle soluzioni dell'azienda. E quindi abbiamo fatto, per esempio, per un'azienda artigiana che fa dei tappeti di alta qualità, abbiamo fatto un progetto di piano di marketing digitale per trovare e arrivare al pubblico veramente interessato, quindi per fare targettizzazione in modo, certo, mirato, usando i dati del il marketing social. È chiarissimo, mi interessavano degli ambiti anche più anche gestionali, delle ricette per esempio, no? Visto c'è, cioè, sì, tra l'altro siamo entrati in ambito poi invece proprio di produzione di operation, per cui in una pasticceria artigianale che ha bisogno di passare da tipo di stampo all'altro, da un formato all'altro, è stata creata una soluzione hardware e software proprio per codificare i processi produttivi e per calcolare tutti i consumi in modo da evitare quelli che sono gli sprechi. In modo iper preciso, perché leggevo, forse per chi ci ascolta, al grammo. Esatto, al grammo. In effetti uno dice vabbè, più o meno gli ingredienti, ma riuscire anche a calcolare quanta granella di nocciola in tutti i dolci tu fai in una settimana è una cosa più complicata. Certo, però consente poi di avere il prodotto fresco, quindi di lavorare sulla riduzione degli sprechi e sulla qualità del prodotto. Certo. Ma costa tanto, se bisogna fare un esempio anche per i nostri ascoltatori, quanto costa la transizione, diciamo, per un imprenditore per arrivare all'impresa 4.0? È un vestito su misura, quindi in ogni azienda si parte da situazioni diverse, quindi da livelli di partenza differenti. Per arrivare poi non occorre arrivare alla fabbrica dove ci sono i robot certo. In ogni caso, perché in molti casi di piccole imprese abbiamo lavorato, non so, su costruire un sistema di e-commerce, piuttosto che ancora andare su mercati specifici di investitori, eccetera, nei processi per mettere insieme le informazioni e i movimenti delle merci, magazzini, flussi logistici, e quindi si fanno cose anche molto certo. differenti. Non saprei risponderle. Era più il fatto che mi sembra che l'avete riscontrato in questo progetto, è più il fatto che in realtà è un investimento commisurato al tipo di azienda ed è un investimento anche che molto rapidamente riporta dei guadagni, se non sbaglio. Quindi ecco, diciamo che è più una risposta generica di dire non è che è un investimento incredibile, pazzesco, è un investimento che si può fare, che va fatto. Tutta l'informatica, oggi anche la parte di dotazioni, pensiamo, non so, le soluzioni cloud, adesso si possono noleggiare o ci sono anche certo. addirittura delle cose gratuite, un po' l'imprenditore è chiaro che ci deve mettere di investimento, ma questa è l'ottica di impresa, si guadagna, si rischia, si investe e si apprende e si innova, questa è proprio la vita d'azienda, è sempre fatta così. Oggi l'innovazione è digitale, in passato abbiamo avuto innovazioni importantissime certo. in termini... Ma senta, rapidissimamente, ma questa rivoluzione secondo lei porta lavoro o lo toglie? Lo cambia, lo cambia. Trasforma, lo cambia, non sarà più il lavoro del passato, certo, quindi bisognerà essere sempre più disposti a reinventare, a reimparare. Il bello di una delle belle cose di questo progetto è che abbiamo lavorato insieme con la Camera di Commercio, con un gruppo ampio dell'Università di Verona, generazioni diverse, competenze diverse, ma tutti si impara. Io dico sempre, siamo tutti apprendisti digitali, certo. perché poi le tecnologie vanno talmente veloci che non c'è nessuno che è... Talmente veloci esperto. Che voi avete fatto un'impresa 4.0 e ci siamo persi la 3.0, nel senso che dal 2 si passa al 4. Vero, dov'è il 3? Che cos'era il 3? Questo è un po' il discorso degli... Il 3 era... l'uso dell'informatica dentro l'azienda, il 4 è l'integrazione dei sistemi e l'intelligenza artificiale, quindi segno. Le macchine che imparano da sole. E il 5, già che ci siamo, così ci portiamo. Il 5 non le so dire, sentiremo qualche futurologo che cosa comunque già si parla di machine learning e di macchine che pensano, anche se speriamo di no, dai, non troppo secondo me. No, cioè, non troppo, penso non troppo. Anch'io che la parte umana resti insostituibile. Ottimo. Grazie molte. Grazie, dobbiamo salutarla, Marta. Complimenti. Ugolini, complimenti. Complimenti anche alla Camera di Commercio di Verona che ha fatto questo lavoro, facendo così anche scendere in campo gli studenti che hanno messo in pratica quello che hanno studiato alla Università di Verona. Vorrei dare il benvenuto a Patrizia. Buongiorno, Patrizia. Buongiorno. So che lei chiama dalla provincia di La Spezia e che ci segnala un museo. Sì, vi segnalo un museo che si trova nel Castello San Giorgio di La Spezia, che fu costruito dai genovesi anticamente, perché La Spezia era, la provincia era in pratica divisa tra le due potenze di Genova e di Pisa, divisa in due proprio, con vari castelli dell'una e dell'altra, e nel castello è stato ambientato il museo archeologico della città, che comprende due testimonianze molto importanti della Lunigiana. Una era la presenza di una popolazione preistorica importante, che erano i Liguri Appuani, e nel museo si trovano le famose statue stele, che sono delle stele dell'età del bronzo e del ferro di questa popolazione, ritrovate in Lunigiana in varie località. E quindi e l'altra, cioè, ecco, è, sì. Prego? No, prego, concluda, che dobbiamo semplicemente dare l'altra è la testimonianza della città romana di Luni. Quindi ci sono dei reperti archeologici di questa città, che era importantissima, bellissima, lungo il fiume sì. Magra, e purtroppo pochi, dico io, reperti, perché si sono dispersi nel tempo. Quando hanno cominciato a scavare diciamo che chi scavò si portava via tutto quanto, e quindi i reperti si sono sparsi dovunque, insomma, certo, anche in certo. case private, e così ecco. si sono aperti anche un sacco di micromusei intorno. Sì. Sto scherzando per ovviamente però. la ringraziamo moltissimo sì. di questa segnalazione. Grazie Patrizia. Buon anno. Grazie molte e buona visita appunto alla Spezia. Abbiamo una piccola pausa, poi torniamo. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è anche il Museo del Cappello a Montappone Fermo, Paese Internazionale del Cappello. C'è anche un cappello di Fellini. Poi c'è il Museo delle Armi a Gardone Valtrompia. E io ho scoperto che il Museo delle Anime del Purgatorio è un'esposizione di documenti e testimonianze che proverebbero l'esistenza del Purgatorio. Leggo da Wikipedia. In attesa di ascendere delle anime appunto di defunti che vi soggiornano in attesa di ascendere in paradiso. È a Roma, lungo Tevere Prati, presso la sacrestia della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio. Hai visto? Hai scoperto tutto. Esatto, adesso andrò a vederlo. Adesso ci dobbiamo andare assolutamente, perché poi ci sono le prove, quindi vogliamo vedere, vogliamo le prove. Massimo Temporelli, buongiorno. Buongiorno, buon anno Carlo, buon anno Laura. Buongiorno a te, Massimo. Fisico, fondatore di The Fab Lab, e insomma vogliamo le prove del futuro. Il nostro esperto futurologo e colui che ci spiega che cosa avverrà o che cosa dovrebbe avvenire. E tra l'altro forse potrebbe già dirci che cos'è quel famoso la rivoluzione 5.0, cosa potrebbe essere. Abbiamo fatto il 2, il 3, il 4, cosa potrebbe essere il 5.0? Con la domanda di prima. Condividi la classificazione del fatto che il 4.0 è l'integrazione, perché il 3.0 era l'informatizzazione, scusi professore, è che è sabato e abbiamo passato le feste un po' così. Anch'io, non preoccupatevi. No, sì, il 4.0 è il proseguo del 3.0, che ha riguardato la digitalizzazione dell'intangibile, chiamiamolo così, delle informazioni. La quarta rivoluzione industriale dovrebbe entrare prepotentemente nel mondo degli oggetti fisici, quindi robotica, automobili che si guidano da soli, frullatori che parlano con le lavatrici, insomma il digitale che si accanisce sugli oggetti, sulla nostra vita analogica e fisica. Ma questo è il 4.0 o è la quarta? La quarta rivoluzione industriale o Industry 4.0. Ah, no? È lo stesso, scusami. No, io sulla 5.0 non credo, sapevo che qualcuno aveva già comprato i domini Industry 5.0, Industry 6.0, ma mi sembra una buffonata incredibile. Poi magari l'ha detto qualche ministro importante, però... Era semplicemente che non sapevamo, avevamo la sensazione che la 3.0 ce la fossimo un po' dimenticata, sì. Nel senso che si fosse passati dal 2 al 3. Io in realtà pensavo che fosse una questione... Dal 2 al 4, pensavo che fosse una questione più di marketing, diciamo, che il 2 c'è stato tanto, quindi qualcuno per fare quello grosso diceva già 3.0, no. 3.0, allora si è trovato un nuovo... Allora, quel 2 che voi dite è il web 2.0, secondo me, ed è quando gli utenti hanno cominciato a caricare, si chiama... il peer-to-peer. Perché, sì, quando gli utenti Facebook, Instagram, ma anche Wikipedia, cioè intorno al 2000, quando gli semplici utenti potevano caricare i loro contenuti, chiamiamoli social, allora si è passati dal web 1.0 al web 2.0. Invece quelli 1, 2, 3, 4.0 sono le rivoluzioni industriali, dal vapore all'elettricità al digitale, e oggi la quarta rivoluzione industriale, che è quella che guardiamo tutti con curiosità, un po' di timore, devo dire, un po' da parte di tutti, perché robotica, intelligenza artificiale... È il motivo per cui noi chiamiamo te, diciamo. Sono ottimista, lo sapete. Esatto, sei ottimista, non vedi l'ora, ci hai sempre spiegato che in realtà, come ci ha anche detto la nostra ospite di prima, in realtà non ci sarà meno lavoro, ma ci saranno lavori diversi, e bisogna semplicemente prepararsi a questo futuro. Ecco, prepararsi a questo futuro... O è già arrivato 2020, e questo numero, come prima anche diceva Laura, che ci è sempre sembrato il punto d'arrivo, però adesso è ci qui. Siamo. Anzi, citando per l'ennesima volta Mattarella, il futuro è già iniziato, ha detto. Che bello, bella. Il 2020 è qua. 2020 è una data simbolica, un po' per il numero raddoppiato, molto bello, ma soprattutto per il fatto che partiamo dall'Europa, poi ci spostiamo in Cina e in America. Va bene. È lì che dove avviene tutto. Diciamo, l'Europa ha lanciato intorno alla metà dello scorso decennio questo programma che si chiamava Horizon 2020, appunto l'orizzonte, no? Diciamo, entro il 2020 l'Europa dovrà diciamo, raggiungere i livelli tecnologici di ricerca e di innovazione dell'America. Ha buttato sul tavolo, e molti che ci stanno ascoltando lo sanno perché ne avranno in qualche modo beneficiato, 80 miliardi di euro, che insomma non sono proprio due bruscolette, e tantissimi progetti di ricerca sono partiti qualche anno fa e in questo anno dovrebbero concludersi, e hanno riguardato qualunque roba che avesse a che fare con l'innovazione, che unisse il pubblico col privato, le università con le aziende, che usasse robotica, intelligenza artificiale. Quindi il 2020, al di là della bellezza del numero che io amo, aveva anche un significato, diciamo, proprio industriale, no? Di visione. L'Europa in questi sei anni, qualcosa è successo, ecco, doveva ritornare. Bisogna vedere, quest'anno si vedrà tutto. Diciamo che la Cina e l'America spingono veramente tantissimo, forte, anche grazie a degli imprenditori un po' più visionari, no? Tipo Elon Musk. L'Italia e l'Europa in generale, essendo un vecchio mondo, fa sempre un po' più fatica a capire le velocità con cui deve avvenire, è anche un po' la scanzonatura, permettetemi, cioè, se si vede Elon Musk, ne parlavo adesso con mio cognato, sembra un cretinotto con miliardario che fa esperimenti, in realtà si sta divertendo, e la passione, il divertimento che in Europa non abbiamo più, secondo me, abbiamo avuto, non abbiamo più, rispetto a questi temi di ricerca, roba serissima, intelligenza artificiale, connessioni tra la macchina e l'uomo. Però microchip nella testa, visto che stai parlando di Elon Musk, che è la sua nuova, giusto? È la nuova startup, sì. Sono molto d'accordo con quello che dici tu, che mi sembra anche utile ricordarlo, nel senso che è proprio un po' una questione di approccio. Noi ci stiamo da un po' di anni un po' intristendo, chiudendo su noi stessi, preoccupandoci, sembra che siamo più preoccupati, e anche un po' lo sguardo che abbiamo verso gli altri di dire, gli americani, i cinesi, cioè, invece di fare la nostra parte, è semplicemente che stiamo qua un pochino a lamentarci, e quindi su questo sono molto d'accordo, e cerchiamo di facciamo cambiarla. Facciamo tanta filosofia appunto sul lavoro, su quello che sarà dell'uomo quando l'uomo, no, nel futuro le macchine lo governeranno, stiamo facendo siamo molto ragionamento. Siamo un continente anziano, ma ripeto, con tutti i vantaggi che ha essere anziani, certo. Non voglio dire che i giovani siano meglio degli anziani, però i giovani non si fanno queste domande, cioè un giovane agisce, ecco, l'Europa è un paese che prima pensa e poi agisce, l'America, da quello che non sono un esperto di macroeconomia o di antropologia americana, però alcuni personaggi proprio loro partono, poi si chiedono che conseguenze hanno la loro azione. L'America c'ha i personaggi, la Cina e l'Oriente in generale, c'è la massa che parte. Sì. La massa parte verso una novità. È difficile, guarda, ti faccio subito un esempio, nel senso che da un lato detto così mi sembra straordinario, no? Perché dico è vero, forse bisogna partire, rischiare, buttarsi e poi si vedrà. E però allora ti chiedo questa notizia che di commentare questa notizia che viene dalla Cina, ovvero bambini geneticamente modificati, nel senso che è stato condannato a 3 anni questo scienziato geniale, direi, perlomeno geniale, che ha provato o dice di aver fatto nascere addirittura non 2 ma 3 bambine che sono immune al virus dell'AIDS, giusto? Sì. E che cosa è qua? È giusto partire prima di avere le autorizzazioni? No, allora, partiamo dal tema, poi sì, vediamo. Scusami, se giusto? Vai, vai. No, nel senso, questa notizia. Vi ricordate quando vi dicevo che il digitale sarebbe entrato nel mondo analogico? Il grosso trend del 2020, del decennio, sarà vedere come l'umano riuscirà a interagire con il codice che abbiamo scritto nelle nostre cellule, il DNA, attraverso le macchine. Allora, è un tema eticamente di una complessità mai affrontata prima, cioè poter scrivere codice dentro il nostro corpo, quindi la sequenza del DNA che ti dice hai gli occhi verdi, hai le gambe lunghe o hai i fianchi larghi, puoi andarlo a modificare, come se fossi su Photoshop, sul codice. Chiarissimo. Allora, questa roba qua è prima della nascita, giusto? Eh sì, sull'embrione credo agisca. Il casino è volevo come, sapere come se potevo sempre dimagrire cambiandomi il DNA, perdonami, era una domanda che stupida. Magrisci, nasci già magro, esatto, magro per sempre, ma io anche sono... se mangi la frittata con ma io patate. Sono già nato però, Massimo, perdonami se sono così ego riferito. Lo so. No, vai avanti che ci interessa molto, quindi è giusto, c'è un tema etico gigantesco però che dovremo per forza di cosa affrontare, perché la tecnologia e la scienza è già lì. Angeles. Da mo adesso c'è qualche folle come Elon Musk e questo cinese che provano veramente a farlo, ma si sapeva che il DNA è un codice e che in qualche modo si può intervenire sul codice cambiando la forma della biologia. Questa cosa qua si sapeva. Quando abbiamo scoperto il DNA abbiamo cominciato 50 anni fa una serie di elucubrazioni, adesso ci stiamo arrivando a metterci le mani sopra. Allora, dal mio punto di vista è la strada da percorrere. È chiaro che come per il nucleare 50 anni fa, puoi usarlo per fare la bomba nucleare o per alimentare le industrie, le città, le attività umane. Chiarissimo. La tecnologia va usata bene. Dire no, non usiamola, cioè se avessi un figlio o sapessi che qualcuno può guarire da gravi malattie alla nascita, cioè come se fosse un vaccino, ma è un vaccino, come si può dire, codificato, sì, nel permanente. DNA. Io direi sì, viva, cioè non moriremo più di malattie infantili, non moriremo più di, certo, di malattie come l'HIV. È chiaro che se questa cosa qua viene utilizzata per selezionare i geni migliori e fare una super, adesso non fatemi parlare sì, di sì, storia, no, abbiamo della seconda guerra mondiale, è chiarissimo quello, è eugenetica, quello è chiarissimo quello che stai dicendo, nel senso che è la tecnologia è di per sé non è né buona né cattiva, dipende l'uso che ne fai, e secondo me tu hai aggiunto anche un altro pezzo, già sappiamo che questo si può fare, quindi in qualche modo dobbiamo interrogarci, anche perché detto magari con un'espressione brutta, se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro, quindi capiamo che cosa si può fare, che cosa vogliamo che si possa fare, perché poi è questo, insomma, finché siamo in una democrazia dovrebbe essere questo. Capiamo, mettiamoci tutti insieme e capiamo, vogliamo debellare alcune malattie e magari quello sarà permesso. Magari invece decidere che il tuo figlio abbia un quoziente intellettivo di 180 e solamente in cambio di denaro, perché poi è quello da capire, se veramente tutti possono raggiungerlo è democraticamente accettabile, se solamente coloro che hanno i soldi possono avere dei super figli che poi diventeranno dei supereroi, allora tanti di... no ma hai ragione, no, adesso sono stiamo cavalcando su temi etici, quindi effettivamente ti restituisco la parola se vogliamo entrare nella questione di Elon Musk sui chip, perché io quella non l'ho veramente capita, cioè lui dice io con un chip nella testa potrò pensare del tipo dico a quella lampadina di accendersi e quella lampadina si accende. Anche lì il brain interface machine è una cosa che esiste da 30 anni. Il problema è soprattutto in Europa siamo molto bravi, ho amici che lavorano nell'università e studiano da sempre come si può in qualche modo tirare fuori il segnale elettrico che si forma nel nostro cervello, quindi sono reti elettriche alla fine, e farle succedere qualcosa fuori, e viceversa, qualcosa che c'è fuori fare modificare lo stato elettrico del cervello. Questa cosa viene applicata banalmente alle protesi per chi ha dei problemi gravi di disfunzionalità sul sistema nervoso. Quindi esistono già, se guardate su YouTube, c'è gente che muove un braccio robotico pensando. Il problema è che questa roba qua era super di nicchia, super di ricerca, la usavano in pochissimi. Elon Musk, come sempre, con una semplicità e una capacità di spiazzare tutti, costruisce una startup, mette in piedi una startup nel 2017, presenta il suo primo prodotto nel 2019, che è un microchip impiantato dietro nella nuca da un robot, che è anche quello brevettato, super preciso, che ti permette, dovete ancora dimostrarlo, di pensare a delle cose e far succedere qualcos'altro all'esterno. Quindi io dico, fai partire il frullatore, deve ancora dimostrarlo di saperlo fare, però sta registrando tutti i segnali che, se tu pensi al frullatore, vedrai un pattern di segnali elettrici sul monitor, perché il microchip arriva il segnale, lì c'è un'antennina Bluetooth che butta fuori il segnale verso l'esterno. Quindi il trend, che non sarà solo Elon Musk a portare avanti in questo decennio, è: si può comunicare direttamente tra il cervello e le macchine e viceversa, una macchina potrà comunicare col nostro cervello. Perché quello, perdonami, io sono molto basic e quindi il mio sogno è di avere Wikipedia dentro la testa, di modo che poi non sbaglio le date. L'inglese, il cinese, le lingue, cioè... Vedi che sei comunque più avanti tu, perché giustamente tu dici il cinese, invece io mi accontentavo di sapere la data di nascita e di morte di Pirandello, cioè avere Wikipedia. Sono antico io in questo e ti chiedo scusa. Siete appassionati di Matrix, infatti stavo per dirlo, che ti scarichi tu. Sarebbe bellissimo. Dopodiché anche lì eticamente cosa significhi imparare, cosa significhi esperienza, quando tu certo. no, clicchi un bottone, non sarà così, eh. Saranno cose sicuramente più basiche, però qualcosina magari che l'umanità possa andare in questa direzione, ripeto, un po' con lo spirito europeo, quindi pensiamo a quello che stiamo facendo, ma un po' anche con lo spirito un po' folle e fresco degli americani che prima lo fanno e poi ci pensano. Se trovassimo l'equilibrio tra questi due continenti, la Cina è tutto un mondo a parte, come diceva Laura, lì ci sono delle masse che si muovono con una potenza anche proprio di numerica che non si è mai vista, quindi lì sono proprio dinamiche che io non riesco neanche a immaginare. Però è vero che è il nuovo il trend della Cina è un trend significativo, nel senso che in questo decennio saranno definitivamente sulla scena dell'innovazione, mentre lo scorso decennio erano metà e metà e quello prima erano solo dei produttori di robe americane. Questo decennio entreranno pesantemente sulla scena dell'innovazione. Grazie Massimo. Massimo, grazie mille, è sempre molto bello. Ti chiameremo di sicuro anche in questo 2020. Parliamone. Perché c'è bisogno di diffondere. Giusto. Bisogno anche di non solo seguire il trend, ma cavalcarlo anche un po', insomma, gridarlo, anticiparlo, giusto. Non lo so. Fare l'osservatore. Esatto, hai fatto anche un discorso interessante su un ruolo che potrebbe avere l'Europa, forse di congiunzione fra America, fra Cina, che sono modi diversi. Forse riusciamo anche noi a ritagliarci un angolo giusto, sano e per quello che sappiamo fare anche dal punto di vista della tecnologia. Secondo me siamo il senato del non so, quotidiano dell'esperienza, no? Cioè fate innovazione, però poi passi dall'Europa senza che ci siano dei freni sull'innovazione, però anche dare un significato a quello che queste nazioni un po' più fresche dal punto di vista culturale fanno, avere in Europa questa roba, no, dell'esperienza. Secondo me non ci metteremo mai d'accordo su questa roba, ma vediamo molto pubblicamente. Sarebbe molto bello che l'Europa avesse questo ruolo, è vero. Basta, vi devo fermare tutti e due perché c'è la viabilità. Vai. Ed è il suo turno. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed è il momento del quiz, ed è il momento quindi di Alberta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alberta, grazie per la pazienza, è rimasta in onda ma ha sentito tutte le cose che riguardano il 5.0, il futuro, il 2020, eccetera. È colpa mia, le chiedo scusa signora, ma andiamo subito con il quiz. Noi adesso le leggiamo, anzi Laura le legge la notizia e poi le diamo tre finali possibili e lei deve indovinare qual è il finale giusto. Allora, la notizia è questa: le sardine contagiano anche il nord. In Finlandia, infatti, il 25 dicembre è nato ufficialmente un movimento ispirato espressamente a quello italiano. Qual è il nome di questo movimento? Risposta numero 1: i salmoni controcorrente. Le aringhe del Baltico. Risposta numero 3: i mirtilli rossi. Quindi come si chiamano le sardine finlandesi? Salmoni controcorrente, aringhe del Baltico o mirtilli rossi? I salmoni controcorrente. I salmoni controcorrente. Anche signora, anche a me sarebbe piaciuto, però il nome comunque sono le aringhe del Baltico, le sardine finlandesi. A me farebbe un po' ridere l'idea di essere le aringhe, comunque. Però è giusto, come le sardine piccole che stanno in uno spazio ristretto, loro giustamente hanno scelto le aringhe del Baltico. Grazie comunque di aver chiamato. Grazie Alberta. Allora, proseguiamo. Abbiamo magari la possibilità di sentire anche Giorgio dalla provincia di Bergamo, però non per il quiz, bensì per suggerirci un museo. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccomi, io volevo segnalare, visto che si parlava di musei, ce n'è uno molto carino in provincia di Bergamo. È il Museo della Storia Postale, di come è nata l'idea del trasporto, delle comunicazioni, prima via terra, poi via mare, fino via ferro con il treno, al Cornello dei Tasso in provincia di Bergamo. Come ripeta il nome? Il Cornello dei Tasso in provincia di Bergamo. Ma è vicino al Parco delle Cornelle? No, c'entra niente. No, è in Valle Brembana, e praticamente è il paese di origine della famiglia Tasso, di Torquato Tasso per intenderci, e proprio la famiglia Tasso fondò l'idea che oggi abbiamo del servizio postale, che poi si tramandò nel tempo e poi passò prima tra le vie commerciali romane storiche, chi portava a cavallo le missive, fino poi arrivare alla posta vera e propria, che fu fondata proprio a Cornello dei Tasso. Benissimo. È molto interessante, è piccolino ma molto fatto bene. Ci sono anche dei libri antichi, appunto, anche di Torquato Tasso. Ci sono delle cose molto... La ringraziamo moltissimo. Grazie di aver segnalato questo museo. Grazie molte. Allora, io proseguirei con la classifica e poi se ce la facciamo qualche altra segnalazione. Che ne dite? Di musei facciamo volentieri. Un misto, ti va bene? Decidiamo tutto insieme in onda, perché altrimenti non riusciamo a farlo. Però. E quindi iniziamo con la nostra classifica, nella quale questa settimana, classifica ovviamente delle buone notizie della settimana, nella quale al quinto posto abbiamo scelto questa notizia, tra l'altro battuta proprio ieri dalle agenzie di stampa. La Guardia di Finanza di Prato consegna alla Caritas 3.000 abiti che erano stati confiscati. Sono pantaloni, maglie, maglioni, giacche, giubbotti sottratti al mercato illegale nel corso di alcune operazioni di polizia economica finanziaria nella provincia, e poi appunto sono state consegnate alla Caritas affinché vengano distribuite a chi ne ha bisogno. Quindi questa una buona notizia proprio di ieri. Al quarto posto, sviluppata l'ecografia senza contatto. Inizierà adesso la sperimentazione sull'uomo. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT, hanno inventato una nuova tecnica laser ad ultrasuoni. Funziona così: un laser genera in remoto onde sonore che rimbalzano attraverso il corpo. Un secondo laser rileva in remoto le onde riflesse e praticamente le trasforma in un'immagine. Quindi come le vecchie ecografie, ma senza il problema del contatto. E uno dice: vabbè, ma il contatto non è che dava tanto fastidio. In realtà dà fastidio ai neonati, soprattutto, e per esempio ai grandi ustionati. Quindi siamo all'inizio di ciò che potremmo fare con l'ecografia laser, afferma Brian Anthony, uno dei ricercatori principali dello studio. Al terzo posto, una buona notizia per gli svizzeri e un buon suggerimento per noi, perché in Svizzera gli impiegati pubblici avranno il tragitto casa-ufficio compreso nell'orario di lavoro. La novità è partita da gennaio e vale per chi si sposta in treno o con mezzi pubblici, ma dovrà essere il capo ufficio ad autorizzare il beneficio caso per caso. La Svizzera ha quindi propria piena fiducia nei propri impiegati, nei propri travè, tanto da autorizzarli appunto a contabilizzare come orario di lavoro il disbrigo delle pratiche nel tragitto casa-ufficio. Se mi permetti una battuta, a Roma potrebbe essere un problema, perché se ci metti anche tutto il tragitto con il traffico, poi sotto la scrivania ci stai 11 minuti. Mezzo pubblico, quindi già chi va con l'auto privata è escluso. Certo. Certo, chi va col bus a Roma in ogni caso, ma anche in molte altre città, può rischiare di trascorrere più tempo in autobus che sulla sedia, no? Comunque. Al secondo posto, il principe William crea, come Laura Bettini, un premio per il pianeta. Si chiama Earthshot Prize, è un premio milionario, ecco, a differenza di quello che diamo noi, che invece ricordiamo sempre che è un attestato, ma non è un premio in denaro. L'ha creato William e cercherà di trasformare il pianeta Terra. Il pianeta Terra ci parla e ci comunica in maniera inequivocabile che non c'è più tempo per attendere. Proprio per questo motivo il principe William, il duca di Cambridge, ha deciso di esporsi in prima persona, creando quello che ad oggi è il più prestigioso premio dedicato all'ambiente. Ogni anno verranno premiati i 5 progetti più innovativi ed impattanti. E al primo posto un altro suggerimento, perché anche qui si può vincere, diciamo così, qualcosa, perché a Napoli parte la sperimentazione del bike sharing. Il comune ci riprova dopo il tentativo di anni fa. È stato pubblicato sull'albo pretorio e sulla home page del sito del comune di Napoli l'avviso pubblico per individuare soggetti interessati ad avviare una sperimentazione di bike sharing nel territorio cittadino. Nel rispetto ovviamente di tutte le linee di indirizzo e le norme previste, l'attività di bike sharing potrà avvenire con sistema free floating e o station based, utilizzando sia biciclette di tipo muscolare che a pedalata assistita, con una flotta che a pieno regime potrà essere costituita fino a un massimo di 6.000 biciclette. Quindi se c'è all'ascolto qualcuno pronto a concorrere, ecco, si faccia sotto che è il momento della città di Napoli. Ed eccoci arrivati. Abbiamo spazio sicuramente per Simone Dabiella, che ha chiamato per il quiz. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi, ciao e buongiorno a tutti. Buon anno anche a lei Simone. Che bravo, ha già messo la base. Allora andiamo subito con il testo. Bella iniziativa Bologna. In Piazza Grande ha aperto un nuovo spazio rivolto ai cittadini che si propone di creare esperienze condivise e occasioni di incontro. Di che spazio si tratta? Risposta numero uno: è una letteroteca, una sorta di biblioteca delle lettere d'amore, dove le coppie in crisi possono rivolgersi per imparare qualcosa degli amori del passato. La risposta numero due è una attrezzoteca che mette a disposizione attrezzi e utensili per bricolage e riparazioni domestiche. Risposta numero 3 è una musicoteca, dove si prendono in prestito strumenti musicali per feste e concerti di vicinato. Orca, ci provo. Dai. La 1. La letteroteca, il nostro inflessibile notaio ci fa notare che non è così, perché è un'attrezzoteca quella che nasce, che mette a disposizione attrezzi e utensili per bricolage e riparazioni domestiche. Questo è, ci spiace molto, ma grazie ad aver chiamato. Grazie Simone, grazie, buon anno. Questa volta ce li teniamo noi i biglietti, significa che domani magari ne possiamo mettere in palio di più. Chi lo sa, domani c'è il personaggio della settimana, iniziamo alle 8:30. E ci fermiamo qui adesso ringraziando Edoardo Lavezzari che oggi ci ha fatto assistenza, e Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani, Andrea Piana, grazie a te. Carlo Gabardini, e grazie a te. Laura Bettini, a domani.